Incontri di Gianfranco Fabi. I am the very model of a modern major general. I've information, vegetable, animal and mineral. I know the kings of England and I quote the fights historical. From Marathon to Waterloo in order categorical. I'm very well acquainted too with matters mathematical. I understand equations both the simple and quadratical. About binomial theorem. Buonasera e ancora buona domenica a quanti ci ascoltano e buonasera a Roberto Giunta. Buonasera a tutti. Ecco, prima di presentarvi Roberto Giunta, di dire chi è e come mai è qui questa sera, gli chiediamo perché questa scelta. Abbiamo iniziato con un brano da un'operetta comica di Gilbert and Sullivan. Come mai, dottor Giunta? Un Savoy Opera, come si dice. Savoy Opera. Perché sono state tutte rappresentate in un teatro, il Savoy di Londra, che è sempre rappresentato solo tutte le operette di Gilbert and Sullivan. E come mai questa passione per questa operetta, per questa operetta comica, che a un profano dice poco, se non questa musica un po' incalzante, queste parole difficili un po' da capire. Difficili da capire, ma soprattutto a me era piaciuta. L'ho sentita in macchina e da buon cacciatore di teste, che è la mia professione, ho voluto andare a cercarla e meno la trovavo più ero interessato. Continuavo a cercare nei negozi, fin quando ho incontrato Geo Pestelli, che è un critico musicale della Stampa, era l'unico che conosceva Gilbert and Sullivan, e l'ho trovato. L'ho trovato, l'ho fatto mio, sono andato a studiare. Questo è quello che fa un cacciatore di teste. Ecco, non so se magari possiamo far risentire un attimo un pezzettino di questa musica. I am the very model of a modern major general. I've information, vegetable, animal and mineral. I know the kings of England and I quote the fights historical. From Marathon to Waterloo in order categorical. Ecco, Roberto Giunta ha già detto qual è la sua professione, cacciatore di teste e responsabile fondatore della Eurosearch International Consultants, che è una delle maggiori società di cacciatori di teste e una delle più antiche, possiamo dire così. È la più antica in Italia, fondata da italiani, l'ingegner Lanza ed io nel 1970 abbiamo costituito questa società, da subito internazionale, quindi con sede a Milano, quando è stata fondata, Parigi, Düsseldorf e Zurigo, e ora siamo presenti praticamente in tutto il mondo. Ecco, come mai è nata questa passione di fare il cacciatore di teste e non di fare il pilota d'aereo o l'ambasciatore? Domanda difficile, perché io ho fatto tante cose inizialmente, pur essendo stato molto giovane, appena non ero ancora uscito dalla Bocconi che fui chiamato dall'IBM. Ho fatto 5 anni di IBM e ho abbandonato l'IBM perché in quegli anni guadagnavo troppo e mi sembrava un po' strano. Infatti ho fatto molto bene, non mi sono mai pentito, ho lasciato, mi sembrava strano dover guadagnare così tanto. Era una in quei tempi. È entrato in IBM già come manager? No, sono entrato in IBM come sales, lì si fa 6 mesi di corso a Rivoltella del Garda, che gli amici chiamavano pistola, i compagni, 6 mesi, e c'era persone molto più anziane di me. Uno di questi era Luciano De Crescenzo, per esempio, con cui poi siamo rimasti molto amici e siamo andati anche a abitare assieme. E poi ho fatto una carriera professionale nell'ambito commerciale. Vendere però dei computer voleva dire saper programmare, conoscere le aziende. E il bello di questo era vedere aziende di tutti i tipi. Mi ricordo che meccanizzai un sindacato, mentre Luciano De Crescenzo meccanizzò le offerte a Sant'Antonio, facendo risparmiare l'ordine di Sant'Antonio, perché mandava... Certo, quindi ci voleva anche creatività. Creatività. In questa... Dopo di questo sono entrato nella grande distribuzione, quindi completamente diverso, e poi capii una cosa di me stesso, che chi ha fatto economia è uomo sempre di sintesi, tende un po' a dimenticare l'analisi, ad approfondire il problema, per cui mi feci un anno di ricerca, proprio di ricerca economiche alla Soris, e mi annoiai, devo dire, moltissimo, una fatica terribile, però imparai che bisogna decidere presto, ma bisogna avere un po' delle basi concrete. Facendo queste ricerche girai anche un po' il mondo e conobbi questa professione. Mi piace. Ecco, che in Italia non c'era. Non c'era ancora, no, italiani non ce n'era. Quindi con l'amico Gianfranco Lanza, che già faceva un lavoro simile, fondammo la Eurosearch. Ecco, Eurosearch, che quindi è diventata una grande impresa, una media impresa, non è la più grande, ma sono le grandi società americane, le grandi società internazionali, che a livello di numeri sono certamente maggiori di voi, ma a livello, diciamo, di una piccola boutique di cacciatori di teste che adesso è cresciuta e si è specializzata in particolare in quale settore? Lei ha usato un termine giusto, boutique. Noi ci vantiamo di essere stati e di essere, e voler continuare ad essere una boutique. Il settore, e anche lì siamo multisettoriali, la nostra ambizione non è quella di essere gli specialisti della moda, del lusso, del metallo meccanico, dei beni di largo consumo. È in ogni settore di avere come cliente la prima società. Beni di largo consumo, credo si possa fare nome, la sì. Ferrero è nostra cliente. Industrie metalmeccaniche, la Fiat è nostra cliente. Ecco, dopodiché questo ci impedisce di avere clienti dello stesso settore, perché lì diventano le nostre riserve di caccia, dove noi andiamo a cercare le persone. Ecco, com'è cambiata rispetto a 40 anni fa, quando è iniziata la sua avventura in questo settore, questa professione, questa capacità appunto da parte delle aziende di cercare, da parte vostra di fare un po' da intermediari per la ricerca di questo personale? Cioè, si dice molto, sì, per esempio, che in Italia i dirigenti si cercano più per relazione che per capacità. Non è proprio così. Io credo che le grosse aziende abbiano bisogno sempre di linfa nuova. Le aziende che non cercano manager all'esterno o sono molto fortunate perché le hanno all'interno, perché sono state aziende ricche che hanno investito nell'interno, o sono aziende molto sfortunate perché stanno andando male. Ma in tutti e due i casi hanno bisogno di persone che vengono dall'esterno, che portino linfa nuova, che sprovincializzano un po', che è il limite spesso di queste nostre aziende, di essere un po' provinciali e di essere anche troppo piccole spesso per avere la capacità di affrontare da sole il mercato internazionale. Ecco, forse 40 anni fa c'era una crescita un po' più forte, una ricerca maggiore di trovare dei talenti nuovi. Adesso veniamo da anni un po' di difficoltà. Siamo in anni, 2 o 3 anni. Prima era più facile. E tant'è vero che adesso i manager devono essere, anche le caratteristiche dei manager che si devono cercare sono caratteristiche diverse da quelle. Quando il mercato tira si vuole manager di espansione, quindi gente che molto commerciali, che siano fedeli all'azienda ma nello stesso tempo si guardino attorno, non importa se stanno pochi anni o pochi, importa che facciano subito dei risultati. Adesso siamo in presenza invece di difficoltà di credito. Nello stesso tempo occorre investire sul prodotto, sulla qualità, e quindi ha problemi finanziari, nello stesso tempo per cercare di investire di più sul prodotto, cosa che non si è fatto nel passato perché il mercato tirava, comprava qualsiasi cosa. Quindi investire sul prodotto, sul controllo dei costi, in special modo sui costi del personale, e quindi ci vuole una persona che sappia dirigere, guidare queste persone in modo deciso, che sappia premiare ma anche punire in modo forte. Quindi più le capacità, diciamo così, umane, le capacità di saper guidare, di saper valorizzare le persone, che non le capacità, anche se ovviamente ci vogliono, diciamo così, professionali, specializzate, molto, magari anche molto teoriche, che nascono dallo studio dei manuali di management americani. Lei ha toccato un punto su cui io credo molto, che è abbastanza facile verificare cosa sa fare un manager da un punto di vista tecnico, e questo lo si vede dal curriculum, lo si vede dove è stato, cosa ha fatto. Quello che è più difficile è valutare la persona da un punto di vista della cultura, della capacità di relazionarsi con gli altri, come riesce a calarsi in ogni cultura, perché ogni azienda ha una sua cultura ben specifica, ha un carattere. Un'azienda come la Ferrero è ben diversa, pur essendo bene di largo consumo, dalla Procter, è ben diversa dalla Lever, certo, e così via. L'Olivetti e l'IBM sono aziende, erano storicamente due aziende completamente diverse. E quindi anche nella ricerca di dirigenti per queste aziende bisogna andare a guardare molto profondamente. E questa è la differenza tra i cacciatori di testi italiani e quelli americani o stranieri, diciamo in senso lato. Diciamo che in Italia non basta il curriculum, ci vuole anche una conoscenza della, esatto, personalità della persona. Incontri. Write a washing bill in Babylonic cuneiform and tell you every detail of Caractacus's uniform. In short, a matter's vegetable, animal, and mineral. I am the very model of a modern major general. In short, a matter's vegetable, animal, and mineral. He is the very model of a modern major general. Ancora con la musica di questa operetta comica di Gilbert and Sullivan, riprendiamo il nostro incontro con Roberto Giunta, presidente di AeroSearch Consultants, una società di cacciatori di teste, fondatore anche di questa società negli anni 70. Abbiamo parlato nella prima parte di come si è evoluta questa professione, come si è evoluta anche la società, delle capacità, delle necessità, delle professionalità che devono avere i dirigenti che vogliono cercare, che cercano le imprese in cui operare, e che cosa chiedono, quali sono i requisiti che queste imprese chiedono. E ci diceva Roberto Giunta in conclusione come ci sia una diversità anche di cultura, di modi di fare, di modi di essere delle diverse aziende, e un dirigente deve essere capace di tener conto di queste realtà, ma è anche di portare delle novità all'interno di queste imprese. Allora a Roberto Giunta io chiedo, come un giovane che si sente di fare la carriera di dirigente, come può cominciare? È una cultura umanistica, una cultura specializzata, o meglio ancora essere figli di papà? Certamente essere figli di papà aiuta, come dice, sapere le lingue aiuta, ma certo. Se lei guarda all'estero c'è gente laureata in filosofia, in scienze sociali, che poi fa il manager. Questo sta cominciando anche in Italia. Mio figlio per esempio è laureato in filosofia, si è lavorato ben contento e poi ha fatto tante altre cose adesso, no? Spesso ci sono degli amici che mi mandano i loro figli perché gli dia una mano per indirizzarli. Questi arrivano dall'università che non sanno assolutamente cosa fare, che cosa sia il marketing, cosa sia la produzione. Ecco, questo non lo sanno. Allora io gli dico, se uno ha già scelto, quando uno ha già scelto, se lo sa è facilissimo. Si dice studia tanto, quando hai studiato tanto dimentica tutto quello che hai studiato, diventa umile, vai, lavora, sporcati le mani di grasso, se vuoi fare la carriera commerciale vai in zona, se vuoi fare la carriera industriale vai in fabbrica e poi comincia e sali. Quando uno non sa niente, cosa che capita spesso, specialmente in queste famiglie borghesi, questi molto coccolati, molto non sanno cosa sia il marketing, allora bisogna che loro facciano un'autoanalisi un attimo, che sappiano capire perché uno passa più ore sul lavoro, certo, di quello che passa a casa con la moglie, con la famiglia. Se lavora e fa un lavoro che non gli piace, è una prigione, è una cosa terribile. Ecco, purtroppo, soprattutto in una fase come questa, bisogna più cogliere le opportunità che non scegliere. A volte spesso avere la possibilità di scelta è un grande privilegio in certi non casi. Non sono d'accordo, vi spiego perché. Io credo che bisogna sapere dove... Ognuno è su una barchetta a vela, su una barchetta. Non può andare dove tira il vento, non può rispondere alla prima inserzione o alla prima chiamata, deve prima analizzare se stesso, decidere che gli piace, vedere quali sono i suoi gli aspetti positivi, gli aspetti caratteriali che lui ha, e poi dire io posso fare il creativo, posso fare l'amministrativo, posso fare... E a questo punto andare a cercare. Tenga conto che fra 10 anni l'80% delle professioni che esistono oggi non ci saranno più, ce ne saranno di nuove. Sì, si dice per esempio che chi entra al liceo adesso probabilmente lavorerà in un'impresa che non c'è ancora. Allora bisogna che uno sappia che cosa vuol fare, dove si diverte. Questo sì. Io ho visto una volta un mio cliente, molto intelligente, che lui non guardava neanche il curriculum degli alti manager. Io dovevo presentargli la persona responsabile di tutti gli impianti, un'azienda che ha stabilimenti, bravo, con la faccia molto triste. Questo mio cliente ha detto, ma lei soffre quando lavora, non si diverte. Lei voleva fare marketing commerciale, quello l'ha guardato e ha detto sì. Questo è terribile, certo. Quello aveva 50 anni, bravissimo per fare gli impianti, ma soffriva tutto il giorno. Sì, però il problema è che comunque lavorare bisogna, soprattutto... Lavorare bisogna, ma se uno sa dove vuole andare lo trova in questo momento. Piuttosto lo trova a fare l'indipendente. Guardi che se l'80% delle funzioni attuali non esisteranno più, si butta, bisogna, se no va a fare l'impiegato. Fare l'imprenditore di se stessi, ecco. In un certo senso, voi cacciatori di teste siete un po' accusati spesso, mi scusi la domanda provocatoria, di essere, di cercare, se un'azienda vi chiede, che so, il capo di del settore commerciale, andate all'azienda concorrente e vedete qual è la persona più adatta. Quindi cercando in questo modo la via più facile, andate dal concorrente e gli rubate una persona di grande capacità. Ma andate anche oltre questa cosa? Beh, quello in genere è facile, è vero quello che lei dice. Noi però andiamo a cercare persone che stanno bene dove sono e che possono, non è detto che devono andare ad essere dall'azienda concorrente. Spesso si va in aziende magari dello stesso settore, da bene di largo consumo si va a prendere un'altra società di bene di largo consumo, ma non dello stesso settore. Che occupa una posizione inferiore magari, certo, e la si fa salire. Sono opportunità che, ecco, si offre. In questa fase, guardiamo un attimo a questi anni, queste difficoltà, dicevamo anche prima, anni abbastanza difficili anche per la vostra professione, anche appunto perché sono più i manager purtroppo che perdono il posto che quelli che lo trovano, certo. E come sta andando? Ci sono dei segnali di ripresa? Ci sono dei segnali che possono far pensare alla possibilità di essere più ottimisti? Fortunatamente sì, abbiamo avuto 2 anni terribili, e che sono crisi. Io dico sempre che le crisi aiutano il mercato perché fanno anche pulizia, si tolgono. Quest'anno noi siamo sopravvissuti, sempre andando non benissimo ma bene. Quest'anno il mercato è ripartito, ma è ripartito bene anche, quindi questo fa ben sperare, perché noi siamo sempre degli indicatori, la nostra attività è sempre in anticipo un po', perché quando le aziende cominciano a vedere e a voler vedere persone per le proprie posizioni, vuol dire che stanno pensando di investire, che hanno nuove idee, che si ristrutturano. Quindi, così come anche un po' prima, andiamo in crisi un po' prima ma ripartiamo prima degli altri. Siamo ripartiti, potrei dire. Beh, quindi già una buona prospettiva. Sotto questo profilo c'è ancora una certa polemica sul fronte dei manager. Si dice che i manager guadagnano troppo, sono troppe disuguaglianze, mentre 40 anni fa un manager prendeva 10-15 volte lo stipendio di un operaio, adesso non ci sono più limiti, si arriva anche a centinaia di volte. Questo è vero. Io tanti anni fa, in una tavola rotonda alla Luis, dicevo che allora, e adesso è aumentato, un amministratore delegato di aziende private guadagna in media 350 volte quello che guadagna un suo dipendente, lo stipendio medio di un dipendente. Il che voleva dire che presto si sarebbe avvicinato alla differenza che c'era tra Luigi XVI e i suoi sudditi. Tutti sapete che fine ha fatto Luigi XVI. Certo. Ecco. Questo era fatto perché le aziende, con i discorsi delle stock option, dei bonus, pensavano di trattenere di più i loro manager, il che non è avvenuto, perché quando uno guadagna così tanto diventa imprenditore lui stesso. Si veda esempi, Morco, Buonora, certo, e così via. Non voglio... Si pensava di motivarli, ecco, no, non è necessario motivarli così tanto per fare quello che poi devono fare, portare a tenere l'azienda, farla guadagnare, espanderla, ecco. Anche perché il bonus, lo stock option, ha prodotto dei risultati talvolta negativi, nel senso che i dirigenti hanno creato valore per se stessi ma hanno impoverito poi l'azienda. Hanno completamente impoverito l'azienda, questa è una vecchia... Cioè, è la polemica tra le aziende asiatiche, giapponesi in particolare, che vengono patrimonializzate, e le aziende occidentali, soprattutto americane, in cui è importante il titolo in borsa. Certo. Il valore del titolo. In Italia non è così forte. In Italia non ha raggiunto questo, per fortuna. E però anche lì ci sono dei correttivi che ormai sono state prese per questo. E questo vale anche per le aziende pubbliche, sono anche dei manager pubblici che guadagnano forse. Beh, lì il discorso era, finalmente si sta affrontando questo problema, insomma, lì è scandaloso. Ecco, ma la società dei cacciatori di teste talvolta può essere interessata a collocare dei manager anche nel settore pubblico oppure ancora off-limits? No, ci sono nostri colleghi che lo fanno, noi ci rifiutiamo sempre di farlo per motivi etici e per motivi... Cioè, il rapporto, quando uno è in un'azienda pubblica, mi sembra assurdo paragonarlo al primo presidente della Corte di Cassazione, che è un organo dello Stato, certo, che è non deve rendere conto a nessuno, non ha, no. Ecco, questo è assurdo. Però il problema non è facendo diminuire gli stipendi dei dipendenti pubblici, è valutarli sulla base del merito di quello che fanno, quindi su come conducono le aziende da una parte, sia su un piano puramente economico che sociale. E il merito non è solo quantitativo, non è sociale, solo sociale, come dicevo, è anche sociale, sulla base di alcuni obiettivi. E poi soprattutto diminuire queste aziende. È uscito un dato che secondo me è interessante, che se permette glielo leggo. Degli ultimi due anni, tre anni, tutti dicono dobbiamo diminuire. E le amministrazioni, più che la PA, sono più che l'amministrazione pubblica centrale, quelle locali che sono terribili. Lei pensi, secondo un recente calcolo dell'Unione delle Province Italiane, nel 2013 i vari enti e le società partecipate dalla regione e dagli enti locali hanno presentato un conto di 8 miliardi 417, che è quasi un miliardo in più rispetto ai 7 miliardi 417 un anno prima. Il costo delle sole società comunali è il risultato di 2 miliardi 128 contro 1 miliardo 370 milioni del 2012. Quindi è una crescita anche in questo settore di società che non si confrontano col mercato e non si confrontano. E che magari hanno anche sono gestite da persone che si accontentano di 60.000 euro all'anno. Un'ultima domanda, dottor Giunta, un'ultima domanda per concludere. Allora, possiamo dal suo osservatorio guardare la realtà comunque, con una realtà in cui le opportunità anche per i giovani stanno cominciando a crescere. Certo, certo, io me lo auguro che continuino così. Grazie mille, grazie a lei, Roberto, dottor Giunta, presidente e fondatore di AeroSearch Consultants, la società di cacciatori di testa, di essere stato con noi questa sera. Ringrazio anche Luca Cremonese in redazione e Gianmarco Ferronato in regia. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buona domenica.